Capitolo 16. Catherine passò anche il giorno seguente in compagnia dell'amica, cercando di tenerla su di morale e di far passare le molte ore noiose prima della consegna della posta. Esercizio utile, poiché man mano che si avvicinava il momento in cui più ci si poteva aspettare l'arrivo della lettera, Isabella si scoraggiava sempre più e prima che la lettera arrivasse era tanto agitata da cadere in uno stato di autentica disperazione. Ma quando questa arrivò, chi avrebbe potuto più scorgere tracce di angoscia? Non ho avuto nessuna difficoltà nell'ottenere il consenso dei miei genitori e mi hanno promesso che faranno tutto quello che è in loro potere per la mia felicità. Così dicevano le prime tre righe, e in un attimo non ci fu altro che la gioia della sicurezza. Il viso di Isabella divenne immediatamente raggiante, tutte le preoccupazioni e l'ansia sembrarono scomparse, il suo brio diventò tale da non poterlo quasi controllare e lei, senza il minimo scrupolo, dichiarò di essere la donna più felice del mondo. La signora Thorpe, piangendo di gioia, abbracciò la figlia, il figlio, Catherine, e avrebbe abbracciato per la soddisfazione metà degli abitanti di Bath. Il suo cuore traboccava di affetto, intercalava ad ogni parola un caro John, una cara Catherine, la cara Anne e la cara Maria. Dovevano diventare immediatamente partecipi di tale felicità. E due cara, prima del nome di Isabella, non erano più di quanto quell'adorata bambina si era ormai ben meritata. Lo stesso John non era da meno nella gioia. Non solo egli dedicò al signor Morland l'elevato apprezzamento di essere uno dei tipi più in gamba del mondo, ma pronunciò molte frasi in sua lode, ovviamente disseminate da imprecazioni. La lettera da cui era scaturita tanta felicità era breve e non conteneva molto più della conferma del successo. Ogni particolare veniva rimandato alla prossima lettera di James, ma per i particolari Isabella poteva anche aspettare. La promessa del signor Morland conteneva tutto quello che era necessario. Aveva impegnato il suo onore e questo rendeva tutto facile. Con quali mezzi si dovesse provvedere alla loro entrata, se si dovessero cedere delle terre o si dovesse realizzare del denaro investito in titoli, era una faccenda della quale l'animo disinteressato di Isabella non si curava affatto. Ne sapeva abbastanza per sentirsi sicura di sistemarsi in modo onorevole e rapidamente, ed era facile per la sua immaginazione volare verso la felicità che avrebbe accompagnato quella sistemazione. Si vedeva entro poche settimane oggetto dell'ammirazione e della meraviglia di ogni nuova conoscenza di Fullerton, dell'invidia di ogni vecchio amico che contasse a Putney, con una carrozza al suo comando, un nuovo nome sui suoi bigliettini, e le dita ricoperte di splendidi anelli. Quando ci si fu rassicurati circa il contenuto della lettera, John Thorpe, che aveva aspettato che si arrivasse prima di partire per Londra, si preparò a lasciarli. «Ebbene, signorina Morland», disse trovandola sola nel salottino, «sono venuto a salutarvi». Catherine gli augurò buon viaggio e gli sembrò non sentirla. Si avvicinò alla finestra, gironzolò un po', fischiettò un motivetto e sembrò completamente assorto nei suoi pensieri. «Non arriverete tardi a Devizes?» disse Catherine. Egli non rispose, ma dopo un attimo di silenzio se ne uscì all'improvviso con queste parole. «Gran bella idea questo progetto di matrimonio sul mio onore, proprio una bella trovata da parte di Belle e Morland. Voi che ne pensate, signorina Morland? Per me non è una cattiva idea». «Oh, certo, penso che sia bellissima». «Davvero? Questo vuol dire essere onesti, buon Dio. Comunque sono contento che non siate nemica del matrimonio. Avete mai sentito la vecchia canzone Un matrimonio tira l'altro? Spero che verrete al matrimonio di Belle». «Sì, ho promesso a vostra sorella di esserci, se sarà possibile». «E allora, sapete?» E si contorceva, sforzandosi di fare una risatina sciocca. «Dico, bene, sapete, potremmo anche noi provare quella vecchia canzone». «Noi? Oh, ma io non canto mai. Comunque, buon viaggio. Stasera ceno dalla signorina Tilney e devo proprio andare». «Ma via, non c'è tutta questa maledetta fretta. Chi lo sa quando ci rivedremo? Non potrò tornare prima di 2 settimane. E diavolo, come mi sembrano lunghe 2 settimane!» «E allora perché state lontano così a lungo?» replicò Catherine, rendendosi conto che lui aspettava che gli si rivolgesse una domanda. «Oh, questo è gentile da parte vostra, gentile e generoso. Non lo dimenticherò facilmente. Credo che voi possediate più generosità di chiunque al mondo, un sacco di generosità. Voi avete tanto, tanto di tutto. E poi avete talmente. Sul mio onore, non conosco nessuno come voi. Oh, povera me, ci sono moltissime persone che mi somigliano, solo sono molto migliori. Buongiorno. Ascoltate, signorina Morland, verrò a porgervi i miei omaggi a Fullerton molto presto, se non vi dispiace. Oh, fate pure. Mio padre e mia madre saranno felici di conoscervi e io spero, signorina Morland, che a voi non dispiacerà rivedermi. Oddio, oh no, di certo, sono pochissime le persone che mi dispiace rivedere, fa sempre piacere stare in compagnia. Proprio come la penso io. Datemi solo un'allegra compagnia, datemi solo la compagnia delle persone che amo, fatemi stare nel posto che mi piace e con chi mi piace e, come dico sempre, al diavolo tutto il resto. E sono proprio felice di sentirvi dire la stessa cosa. Ma ho l'impressione, signorina Morland, che voi ed io la pensiamo in modo molto simile sulla maggior parte delle cose. Forse, ma è molto più di quanto io abbia mai pensato, e per quanto riguarda la maggior parte delle cose, a dire la verità, su molte non so neppure io come la penso. Ah, per Giove, e nemmeno io. Non sono abituato ad affaticarmi il cervello con quello che non mi riguarda. Ciò che io penso è piuttosto semplice. Datemi una ragazza che mi piace, dico io, e un buon tetto sulla testa, e cosa me ne importa di tutto il resto? La ricchezza non è niente. Io sono sicuro di avere una buona entrata da parte mia, e se lei non ha uno scellino, beh, chi se ne importa. Verissimo, qui sono d'accordo con voi. Se c'è una discreta fortuna da una parte, non c'è bisogno che ci sia anche dall'altra. Non importa chi ce l'ha, purché sia sufficiente. Detesto vedere chi è ricco cercare un altro ricco. E penso che sposarsi per denaro sia la peggior cosa del mondo. Arrivederci. Saremo molto contenti di vedervi a Fullerton quando verrete. E se ne andò. Tutta la galanteria di lui non poteva trattenerla di più. Con simili notizie da comunicare e una tale visita per la quale prepararsi, niente di quanto egli avrebbe potuto escogitare era in grado di ritardare ancora il momento in cui Catherine se ne sarebbe andata, e lei se ne andò in fretta, lasciandolo fermamente convinto di essersi rivolto a lei nel modo più felice e di esserne stato esplicitamente incoraggiato. L'emozione che aveva provato lei stessa quando aveva saputo del fidanzamento del fratello faceva sì che si aspettasse di suscitare una medesima emozione nei signori Allen, comunicando loro il meraviglioso avvenimento. Quanto fu delusa. Quell'evento, che lei riferì dopo una lunga introduzione che doveva prepararveli, lo avevano previsto entrambi fin dall'arrivo del fratello, e tutto quello che provavano in quell'occasione fu espresso nel desiderio che i giovani fossero felici e in un commento da parte del signor Allen a proposito della bellezza di Isabella e da parte della signora Allen a proposito della sua gran fortuna. Questo era per Catherine segno della più incredibile insensibilità. Comunque, la rivelazione del gran segreto della partenza di James per Fullerton il giorno precedente riuscì a destare una certa emozione nella signora Allen. Non riuscì a rimanere perfettamente calma a questa notizia, ma si rammaricò ripetutamente della necessità di nasconderla e disse che avrebbe voluto essere informata circa le intenzioni di James e che lo avrebbe voluto vedere prima di partire, poiché certamente l'avrebbe importunato chiedendogli di porgere i suoi rispetti al padre e alla madre e i suoi saluti più affettuosi agli Skinner. Le aspettative di Catherine circa la sua visita a Milsom Street erano tali che era inevitabile ne restasse delusa. E infatti, benché il generale Tilney la ricevesse con la massima cortesia e sua figlia le porgesse il benvenuto più gentile, benché ci fosse Harry e non ci fossero altri ospiti, pure lei si rese conto, tornata a casa e senza bisogno di analizzare troppo a lungo i propri sentimenti, che era andata all'appuntamento sicura di ricavarne una gioia che questo invece non le aveva concesso. Invece di ritrovarsi più intima della signorina Tilney, dopo aver passato insieme parte della giornata, le pareva che la loro amicizia fosse quasi diminuita. Invece di avere l'opportunità di conoscere meglio Harry Tilney, che avrebbe dovuto trovarsi più a suo agio nel gruppo familiare, si rese conto che mai lui aveva parlato così poco, né era stato tanto poco amabile. E nonostante le ripetute cortesie del padre verso di lei, nonostante i suoi ringraziamenti, gli inviti, i complimenti, era stato un sollievo allontanarsi da lui. Tutto questo la meravigliava, Non poteva essere colpa del generale Tilney. Che egli fosse amabilissimo e avesse un ottimo carattere, che fosse nell'insieme un uomo più che affascinante, era fuori discussione, poiché era alto e bello, ed era il padre di Henry, non poteva certo essere ritenuto responsabile dell'umore poco vivace dei figli o del suo poco gradire la sua compagnia. L'umore dei figli, si disse infine, poteva essere stato un caso, mentre il disagio da lei provato non lo poteva attribuire che alla propria stupidità. Isabella, sentiti i particolari della visita, fornì invece una diversa spiegazione. Non era che la presunzione, presunzione, insopportabile arroganza e presunzione. Da tempo sospettava che quella fosse una famiglia molto su, e adesso ne era certa. Non aveva mai sentito parlare in vita sua di un comportamento insolente come quello della signorina Tilney, non fare nemmeno gli onori di casa con la più comune buona educazione, comportarsi con l'ospite con una tale alterigia, parlarne appena. Oh, beh, ma non è andata così male, Isabella. Non dimostravano nessuna alterigia e lei è stata molto gentile. Oh, non difenderla. E il fratello, allora, che sembrava tenere tanto a te? Santo cielo. Beh, i sentimenti di certa gente sono proprio incomprensibili e così si è noti a guardata una volta in tutto il pomeriggio. Non dico questo, ma non sembrava di buon umore. Che comportamento spregevole. Se c'è una cosa che detesto è l'incostanza. Lascia che ti dica, mia cara Catherine, che non dovresti più pensare a lui. Ti assicuro che non è degno di te. Non è degno di me? Ma non credo che abbia mai pensato a me. È quello che ti sto dicendo. Non pensa a te. Una tale volubilità. Oh, com'è diverso da tuo fratello e dal mio. Credo davvero che John abbia l'animo più costante del mondo. Oh, ma per quanto riguarda il generale Tilney, ti assicuro che sarebbe stato impossibile per chiunque comportarsi con una maggiore cortesia o avere più attenzioni verso di me. Sembrava che la sua unica preoccupazione fosse intrattenermi e farmi contenta. Oh, so che lui non ha nessuna colpa. Non credo che lui sia presuntuoso. Penso invece che sia un vero signore. John ha un'ottima opinione di lui. E il giudizio di John? Bene, vedrò come si comporteranno con me stasera. Ci vedremo al ballo. Devo venire anch'io? Non vuoi? Pensavo che fosse deciso. Ma sì, dato che ci tieni tanto, non saprei rifiutarti nulla. Ma non insistere perché mi comporti in modo particolarmente amabile, perché lo sai, il mio cuore è lontano, circa 40 miglia. E quanto alla danza, ti prego, non parlarne neppure. Quella è davvero fuori discussione. Immagino che Charles Hodges mi tormenterà a morte per farmi ballare, ma io taglierò corto. 10-1 che indovinerà il motivo, che è proprio quanto voglio evitare, quindi insisterò perché si tenga per sé le sue congetture. L'opinione di Isabella sui Tilney non influenzò l'amica. Era sicura che né i modi del fratello né quelli della sorella erano stati insolenti e non credeva si trattasse di presunzione. La serata ricompensò la sua fiducia in loro. L'una l'accolse con la stessa cortesia e l'altro le dedicò le stesse attenzioni di sempre. La signorina Tilney fece di tutto per starle vicina e Harry la invitò a ballare. Il giorno prima, a Milsom Street, aveva saputo che il fratello maggiore di Harry, il capitano Tilney, era atteso da un momento all'altro e quindi capì subito chi fosse il bel giovanotto dall'aria molto elegante che non aveva mai visto prima e che ora spiccava all'interno del gruppo dei Tilney. Lo guardò, molto ammirata, e pensò perfino che forse qualcuno avrebbe potuto trovarlo più bello del fratello, benché ai suoi occhi avesse un'aria più arrogante e una fisionomia meno affascinante. Il suo stile e i suoi modi erano senz'altro decisamente inferiori. Infatti, poco lontano da lei, lo sentì non solo protestare, che non aveva la minima intenzione di ballare, ma anche ridere apertamente di Harry, che considerava la cosa possibile. Da quest'ultima circostanza si può presumere che qualunque opinione avesse di lui la nostra eroina, l'ammirazione che il capitano poteva nutrire verso di lei non era molto pericolosa. Non era probabile che provocasse rivalità tra i fratelli né tormenti alla dama. Non potrà essere lui l'istigatore dei tre malviventi che, avvolti nei loro mantelli, la trascineranno in una carrozza chiusa trainata da un tiraquattro che partirà a tutta velocità. Catherine, nel frattempo, per niente turbata da presentimenti di simili mali, né di nessun male in generale, semmai solo preoccupata di avere poco spazio per ballare, si sentiva, come sempre, felice insieme a Henry Tilney. Ascoltava con occhi lucidi qualunque cosa gli dicesse e, pensando quanto lui fosse irresistibile, diventava irresistibile lei stessa. Al termine della prima danza, il capitano Tilney si avvicinò di nuovo a loro e, con grande disappunto di Catherine, si portò via il fratello. Si appartarono a bisbigliarsi qualcosa e, benché la sua delicata sensibilità non si allarmasse immediatamente e non desse affatto per scontato che il capitano Tilney avesse sentito qualche malevola calunnia su di lei, che ora si affrettasse a comunicare al fratello, sperando di separarli per sempre, pure Catherine non poteva fare a meno di sentirsi molto a disagio quando le portarono via il suo cavaliere. Rimase in sospeso per ben 5 minuti e incominciò a pensare che fosse passato un lungo quarto d'ora quando entrambi ritornarono e le fu fornita la spiegazione di quei conciliaboli. Harry, infatti, le chiese se secondo lei la sua amica, la signorina Thorpe, avrebbe avuto niente in contrario a ballare, dato che il fratello sarebbe stato felicissimo di venirle presentato. Catherine rispose, senza alcuna esitazione, che era sicura che la signorina Thorpe non intendeva danzare affatto. La replica crudele fu riferita all'altro, che immediatamente si allontanò. «So che vostro fratello non se la prenderà», disse Catherine, «perché l'ho sentito dire prima che odia ballare, ma il suo è stato un pensiero molto gentile. Suppongo abbia visto Isabella seduta e abbia immaginato che poteva desiderare un cavaliere, ma si è sbagliato. Mi ha detto che non danzerebbe per niente al mondo». Harry sorrise e disse: «Com'è semplice per voi capire il motivo delle azioni degli altri. Perché? Cosa intendete dire? Voi non pensate mai come si può influenzare un tipo del genere? Quale tipo di persuasione è più probabile abbia effetto su quella persona, considerati i suoi sentimenti, l'età, la situazione, le sue probabili abitudini? Ma pensate invece, come potrei essere influenzata io, grazie a quale tipo di persuasione finirei con l'agire così e così? Oh, non vi capisco. Allora ci troviamo su piani diversi, perché io vi capisco perfettamente. Capite me? Sì, non sono capace di parlare tanto bene da non farmi comprendere. Brava, una satira eccellente del linguaggio moderno. Ma per favore ditemi cosa intendete. Davvero lo volete? Lo desiderate veramente? Ma non vi rendete conto delle conseguenze? Vi metterebbe terribilmente in imbarazzo e certamente porterebbe il disaccordo tra di noi. Oh no, no, non accadrà niente del genere, non ho paura. Ebbene, allora, intendevo solo dire che il vostro attribuire il desiderio di mio fratello di ballare con la signorina Thorpe unicamente alla gentilezza mi ha convinto che voi siete la persona più gentile del mondo. Catherine arrossì e si schermì e si avverarono le previsioni di Harry. C'era qualcosa comunque nelle parole di lui che l'aveva ripagata della confusione che le avevano procurato, e quel qualcosa le occupò la mente in modo tale che si appartò per un po', dimenticando di parlare o di ascoltare, dimenticando dov'era, finché, risvegliata dalla voce di Isabella, alzò lo sguardo e la vide in piedi, pronta a ballare con il capitano Tilney. Isabella scrollò le spalle e sorrise. L'unica spiegazione che potesse dare in quel momento per questo straordinario voltafaccia. Ma dato che questo non bastava perché Catherine la comprendesse, questa espresse apertamente la sua meraviglia a Harry Tilney. Non riesco a credere che ciò sia potuto avvenire. Isabella era così decisa a non ballare. Forse che Isabella non ha mai cambiato idea prima d'ora? Oh, ma è perché è vostro fratello. Dopo quanto gli avevate detto da parte mia, come ha potuto pensare di invitarla lo stesso? Ah, di questo non posso sorprendermi affatto. Voi dite che il comportamento della vostra amica mi deve meravigliare e io obbedisco, ma per quanto riguarda mio fratello, devo ammettere che si è comportato esattamente come prevedevo. La bellezza della vostra amica era un motivo evidente di attrazione. La sua fermezza, sapete, la potevate capire solo voi. Voi ridete di me, ma vi assicuro che in genere Isabella è molto decisa. Oh, è più o meno quanto si possa dire di chiunque. Essere sempre decisi significa spesso essere ostinati. Sapere quando cedere è una prova di buon senso. E senza voler essere parziale verso mio fratello, credo sinceramente che la signorina Thorpe non abbia certamente fatto male a scegliere questo momento. Le due amiche non ebbero occasione di incontrarsi finché le danze non finirono, ma allora, mentre passeggiavano sotto braccio per la sala, Isabella si spiegò così. Non mi meraviglio che tu sia sorpresa, e io sono davvero stanca da morire. È un tale chiacchierone. Abbastanza divertente se avessi avuto la mente libera da ogni pensiero, ma avrei dato tutto l'oro del mondo per potermene stare seduta tranquillamente. E allora perché non l'hai fatto? Disse Catherine. Oh, mia cara, sarebbe sembrato così strano, e tu sai che detesto mettermi in evidenza. Ho rifiutato finché ho potuto, ma lui non voleva saperne. Non hai idea di quanto abbia insistito. L'ho pregato di scusarmi, di scegliersi un'altra dama, ma no, lui no. Dopo aver aspirato alla mia compagnia, gli sembrava insopportabile solo l'idea di poter ballare con qualcun'altra. E non è che volesse semplicemente ballare, voleva proprio stare con me. Oh, certe sciocchezze. Gli ho detto che aveva scelto il modo sbagliato per convincermi, perché non c'è niente al mondo che detesti come i bei discorsi e i complimenti. E allora mi sono resa conto che non avrei avuto pace se non ballavo. Inoltre temevo che la signora Hughes potesse prendersela male se non danzavo con lui, perché era lei che me l'aveva presentato. E il tuo caro fratello, sono sicura che sapere che me ne ero restata seduta per tutta la sera lo avrebbe reso infelice. Sono così contenta che sia finita. Mi sento spossata dopo aver ascoltato tutte le sciocchezze che diceva. E poi è così appariscente che mi sono accorta che avevamo tutti quanti gli occhi addosso. Eh sì, è davvero molto bello. Bello? Oh sì, suppongo che si possa definirlo così. Direi che è un tipo che di solito riscuote successo, ma non è affatto il genere di bellezza che piace a me. Detesto gli uomini con quel bel colorito e gli occhi scuri. Comunque, è un tipo a posto. Terribilmente presuntuoso, ne sono sicura. L'ho smontato un bel po' di volte, sai come faccio io. La volta successiva che si incontrarono, le due signorine avevano un argomento molto più interessante da discutere. Era arrivata la seconda lettera di James Morland, che spiegava nei dettagli le gentili intenzioni del padre. Il signor Morland avrebbe passato al figlio, non appena questi avesse avuto l'età per poterla riscuotere, una rendita di cui era titolare e che ammontava circa 400 sterline l'anno, il che significava sottrarre non poco alle entrate della famiglia e comportarsi in modo molto generoso nei confronti di uno tra i 9 fratelli e sorelle. Inoltre veniva assicurata a James una proprietà quasi di uguale valore che avrebbe ricevuto come eredità. James, in questa situazione, esprimeva giustamente la propria gratitudine e sopportava di buon grado la necessità di aspettare 2 o 3 anni prima di potersi sposare, dato che, per quanto la cosa potesse dispiacergli, non aveva mai immaginato di dover aspettare meno. Catherine, le cui aspettative erano state vaghe, quanto erano vaghe le sue idee circa il reddito del padre, si fidò completamente del giudizio del fratello e provò quindi una soddisfazione uguale alla sua e si congratulò sinceramente con Isabella per il modo in cui le cose erano state sistemate. Oh, proprio fantastico! Disse Isabella con il viso serio. Il signor Morland si è comportato davvero con la più grande generosità, disse educatamente la signora Thorpe, lanciando sguardi ansiosi alla figlia. Vorrei solo poter fare altrettanto. Non ci si poteva aspettare di più da lui, sapete. Se nel frattempo egli si renderà conto di poter fare di più, penso che lo farà, perché sono certa che ha un cuore d'oro. Certo, 400 sterline è un reddito minimo con il quale incominciare, ma i tuoi desideri, mia cara Isabella, sono così modesti che non ti rendi conto nemmeno tu di quanto poco tu chieda, mia cara. Oh, non è per me che vorrei di più, ma non sopporto che per colpa mia ne abbia a soffrire il mio caro James, costretto ad accontentarsi di un reddito che basterebbe appena una persona sola per provvedere alle necessità comuni della vita. Per me non mi importa certo, non penso mai a me stessa. Oh, lo so, mia cara, e ne sarai sempre ricompensata dall'affetto che chiunque ti conosca non può fare a meno di provare per te. Nessuna ragazza è amata quanto te da chi ti conosce. E oserei dire che quando il signor Morland ti vedrà, mia cara bambina. Oh, ma non annoiamo la nostra Catherine con questi discorsi. Il signor Morland si è comportato talmente bene, sapete. Ho sempre sentito dire che è un uomo eccellente. E tu sai, mia cara, che non dobbiamo nemmeno pensare che se tu avessi avuto una dote degna di te, E gli avrebbe concesso qualcosa di più, perché sono certa che è un uomo estremamente generoso. Certamente nessuno può avere del signor Morland un'opinione migliore della mia, ma si sa che ognuno ha i suoi difetti e ognuno ha il diritto di fare quello che vuole con il proprio denaro. A Catherine queste insinuazioni non piacquero. Sono certissima, disse, che mio padre ha promesso tutto quanto poteva permettersi. Isabella si riprese. Oh, quanto a questo, mia dolce Catherine, non può esservi il minimo dubbio, e tu mi conosci abbastanza da sapere che mi sarei accontentata anche di un reddito molto più modesto. Non è la mancanza di denaro che in questo momento mi scoraggia. Detesto il denaro, e se potessimo sposarci ora con solo 50 sterline l'anno, io sarei perfettamente felice. Ah, mia cara Catherine, tu mi hai capita, è proprio quello che tu pensi, quel che mi affligge. Quei lunghi, lunghi e interminabili 2 anni e mezzo che devono passare prima che tuo fratello possa entrare in possesso della rendita. Sì, Isabella carissima, disse la signora Thorpe, noi leggiamo perfettamente nel tuo cuore, non sei capace di fingere. Capiamo perfettamente la tua angoscia attuale e tutti ti ameranno ancora di più per questa tua nobile e sincera preoccupazione. La sensazione di disagio di Catherine incominciò ad affievolirsi. Si convinse che il protrarsi dell'attesa prima del matrimonio fosse l'unico motivo di rimpianto di Isabella, e quando nel loro successivo incontro la vide allegra e amabile come sempre, si convinse che mai l'aveva sospettata diversa. Dopo la lettera arrivò presto James in persona, che fu accolto con la più lusinghiera cortesia.